Ramone! Che Mari! Che Mari! Oh! Come sto uscendo? Vai a passare più lungo! Vedi un po', quella rossa, Ferrari. Già va bene, va bene, la fuggia, bella chiara. Vero? No, no, già va bene, sì. Andava bene. Va bene, aspetta, che sono cambiato di attrezzo. Già va bene, tanto io entro a lavarmi, dai. E già acceso. Camari. Luca, Luca. E andiamo, vai, andiamo. Scatta. Ehi. Andiamo, vai, andiamo. E la parola. E lu. Ehi. Che mari. Ammettosi. E andiamo, vai, andiamo, babbo. Va bene. E lu. Vabbè, bello. Cosa hai combinato oggi? Nulla, mi sono usciti presto, siamo orientati poco fa. Sono andato a fare delle commissioni, adesso siamo a casa. Già va bene. Già va bene. Ma che a te la devi piazzare, Lu? Devo fare la... Luca mi deve costruire la cosa. Come si chiama? La... Bah. La Game Master. Ah. Ma perché? Ma casa tua non ce l'hai la mattova? Ma è perfetto. Qua la devo piazzare. Ah? Qua la devo piazzare. Ah, ho capito. E te la vuoi fare nuova, va? Ma quella... Ma precisa qual è il dittore, qua? E io. È bella quell'antenna, fiesta. Hai visto il toro come esce? Bombo, E non la piega il vento, Sì, adesso andiamo a vedere le canne e poi, al limite, l'avvolgimento lo facciamo con questo cavo qua, con questo 58 qua. Poi la calata già ce l'ho, me l'ha regalato Gianni, quello ce l'aveva prima lui, quello vecchio, da. Già ancora buono. Ah, fai bene, va, fai bene. Già va bene. Tranquillo allora, va. Beh, il cavo comprato te l'hai. No, l'H155 non l'ho chiesto se ce l'ha Fusaro. Dovrei chiamare domani e chiedere se ce l'ha. Se ce l'ha, vado e me lo compro. Tanto ce ne serve 5 metri, ha detto Luca. Fusaro dovrebbe averlo, Ma GBC assolutamente. Io ho cercato di fare parecchi negozi, nessuno ce l'aveva quel tipo di cavo. Mentre invece Fusaro ce l'aveva. Io l'avevo preso 40 litri. L'avevo preso. Più avevo fatto la discesa, quella di qua. Poi avevo fatto la discesa di casa. Più l'avevo dato 5 metri a Luca e me ne sono rimasto una discesa solo adesso per quella, la stomma la voglio togliere e metto quel capo con l'altra antenna, capito? Sì, ci mancherebbe, non ci sono problemi giovani, non c'è problema, adesso mi domani chiamo, se ce l'ha, adesso non lo faccio con 58, non me ne frega niente, tanto già va bene lo stesso. Ma se no c'è, se no dovrebbe averlo, che se tanto ce l'avrà, se dovrebbe averlo, passate all'ordine, due o tre giorni te lo porta, te lo porta loro, capito? Perché a me l'altra volta non ce n'era, ma dice, fra tre giorni già ti chiamo io, e mi ha chiamato, sono andato e me l'ha dato. Tanto me ne sono 5 metri, perché Lugato ce ne vogliono 5 metri? Adesso vediamo, domani chiamo e vediamo un po' se ce l'hanno o no. E se no lo faccio col 58, non mi interessa. Quello là, ma la sorge, quello è troppo buono il cavo, Lì è troppo buono il cavo, così che se c'è presente quello che è meglio. C'è da aspettare, casi due o tre giorni non è che ne scende l'aria, no? Però perché è un cavo troppo buono, capito? Lo so, io non lo conosco, ma non lo stava dicendo Luca. E me l'ha detto chi è? Me l'ha detto Natalino, Claudio, c'è un capo buono. Va bene, noi ci sentiamo, dai. Dai, ci sentiamo magari dopo. Ok. Ciao Gio Mari, adesso me ne vado in soggiorno un po'. Andava, a più tardi o a domani. Ciao Giovanni. Ok, d'accordo, lui, ciao. Ciao Mari. Ciao Bava. E che stai fando? Ah! Mangiando la pasta al forno stai. Ehi, sa che mi chiamo Luca io. Luca mi sembra che stia mangiando la pasta al forno. Quella che la fa saltare mezzogiorno. Io bucatini stanotte, dai. Bucatini di cinghiale. Ma che? E Luca? E a te io lo so che non ti piace. No. Pucci. No, io c'ho delle coscette al forno con patate e salsiccione. Hai te. E se male. Dai, vai. E facciate sedere al sacchetto a voi. E ora la bella di sanguzione. Ma Max, dai, di se lo brescio. Non ho capito, Gio Mario, il prezzo di quell'attrezzo. E quell'attrezzo è? Ma senta, insomma, prima costava di meno, ma l'ho aumentato. No, è sempre lo stesso il prezzo, Gio Mario, aspetta che ti mando la foto. Come? È sempre lo stesso il prezzo, aspetta che ti mando la foto. Dai, manda. Bello, io l'ho visto pure. Guarda che te l'ho mandata, aprila però la foto che ti fa vedere il prezzo. Adesso la guarda. Andiamo bene. Fanoni. Abbiamo famo, bene mi senti, famo. Prova, aspetta. Prova. Vedi un po', com'è? 1, 2, 3, 5, 9, 7, 14, 18. È forte, però non è come la boyfriend l'altro. Aspetta un attimo. Ma stai scherzando, stai? Ma scherzando, stai? Vai, che sta andando bene. Non sto dicendo che sta andando male, però a differenza dell'altro è molto meglio l'altro. È forte, però un po' tranquillo. Vabbè, magari, non so. Dipende da come li fanno, infatti. Sì, Lucia Mari! Ehi, saluto! Ehi, Luca sta mangiando la pasta al forno, per quello non ti saluta, Gio Mario. Oh, ce ne sono due tipi, Lu. Ecco perché io avevo visto l'altro tipo. Questo c'è, ma non me lo piegato, mentre invece l'altro ce l'ha dritto. No, io ti sto dicendo questo qua. No, il prezzo di questo è sempre lo stesso, vedi? 1,59. Ehi, certo, tocca il pigliso. E saranno, pigliso. Ma bufuesi sì, anche a po' forse lo cammina, devi sforzarti, ma la mattina fa farà da danza. No, non è così, ma che stai pensando? Ehi, allora parliamo in verticale, vedrai. Ah, lo so perché mi hanno mandato i video quelli che lo vendono, non è così, guarda, è una semplicità unica. E Luca! Ehi, Luca, ritiratesi. Sì, va a passare in forro. Ah, non va finita ancora. Piatta rete, sarà... Mi pare che la figlia che mi dà ancora. Ecco da finirla. A WhatsApp, ti ho mandato una foto. Me la stavo regalando. Già ce l'ho, presente per cosa serve. Troppo grossa, ecco. Poi già ne parliamo in verticale di per cosa serve questo. Piglia tutto. Da poi dai tutto a me intanto. E domani passa il ritiro. Se te la sono rigarendi, basta subito a pigliarla tutta questa roba. E allora, che a te? Che Maria basta il forno? Sta giù, Vizio, i donsili dai nocchi. Ma non va bene quella. Quella della cassetta? No, l'antenna. L'antenna? E la camera? Chissà se va più dal gommone, dalla barca, a aging, capito? Bollentina. E basta, arrivano, vanno bene quelle. L'antenna. Ma... Assolutamente. Allora, no, prendi, la carta ci stiamo già regalando il biglietto. E non la piangi, non siamo riposti. Guarda, a me, cosa te ne fai? Stiamo già regalando, cioè. E che è lui? Ti ho mangiato abbastanza forno.